later than you think. La fabbrica di polli si sente da lontano, il sordido richiamo di una vita in batteria. Dietro quei cancelli che cosa nasce prima? L'uovo, la gallina, le penne o i calamai? La fabbrica di polli produce, mentre nella fabbrica di polli il ricambio generazionale corre come uno struzzo impazzito, Kappa e Drago stanno parlando del Belgio. Hai visto, Drago, la videoteca della fabbrica è chiusa. Lo so, l'hanno data alle fiamme perché ultimamente teneva solo film belgi. Ma come film belgi? Sì, i fratelli Derden, quella roba lì. Ma cosa dici? Eh sì, è per compiacere i mercenari belgi della Sécurité. Ah, e chi è che ha appiccato l'incendio? Le masse esasperate dai film belgi. D'altra parte ci va poco a esasperare le masse con un film belga, no? Beh, anche il negozio di dischi è chiuso, comunque. Che quello è fallito perché la discografia ormai non esiste più. Ah beh, tu ne sai qualcosa, eh? Sì, Io adesso mi arricchisco sui bei coi vinili che nessun negozio vende. E questa è la cosa divertente. Ma scusa, ma dischi belgi ne hai? Perché ti interessa un disco belga? Sì, è Jacques Brel oppure? I Telex. I Telex. Io segno, eh. Perché poi vado in giro e li trovo magari. Magari scriviti i Telex. E poi li metti in asta, eh. Ma i Telex erano quelli di Moscow Disco? Sì. Com'è che faceva? Moscow Disco. Hi folks, noi polli Hare Krishna, polli arancioni dalla cima alla radice delle piume, protestiamo contro il mercimonio di dischi di vinile. Krishna, Krishna. Essi sono inquinanti in modo pazzesco. Hare Krishna. Incredible polluting vinyl records. Sì, vabbè, poi pianti un albero e tutto si sistema, no? Salà a tutti da frequenza disturbata da Radio Arkman. Cronaca interna. General Sparahar ha lanciato monete contro costume troppo occidentale di gioventù Arkmana. General ha invitato ragazzi a far crescere baffi in modo naturale, senza aggredirli con crema depilatoria che sono vergogna per tutte le famiglie. General ha altresì invitato ragazze ad avere paura di organo genitale femminile che, come sabbia mobile, fa affondare gioventù in vizio e in corruzione. Per festeggiare General Sparahar sono stati sparati 700 colpi di cannone per costo complessivo pari a 33% di PIL che è prodotto interno lordo di Arkmenistan. Lunga vita di General Sparahar. La fabbrica di polli. Ecco, pensa Kappa, pensa se tu fossi un Irkmen. No, ma di nuovo, ma lo so già, la moglie sessantenne sposata quando avevo 12 anni, il cammello in comproprietà con i miei cognati che sono tipo i 40 ladroni di Alibaba, le preghiere, i tappeti, non so. Gente, ti svegli al mattino che sei già tutto sudato per il gran caldo, sì. Questo devi ricordartelo perché sì, uno fa finta, vero. Dice io sono un Irkmen, devi pensare sudato fin dal mattino. Sì. Esci per strada e incontri dei soldati ubriachi che agitano il fucile. E cominciamo bene. Tu li saluti con nonchalance. Come? Con nonchalance. Cioè, secondo te uno mentre lì che passa davanti a dei soldati armati e ubriachi, sudato, pensa cose come la nonchalance? Non è che pensa, deve pensarci, perché non è che hai delle altre scelte. Se fai vedere che sei spaventato, sei fottuto. Come coi cani. Vabbè, allora saluto con nonchalance i soldati. E vai a lavorare. E che lavoro faccio? Accompagni i giornalisti stranieri su per le montagne del tuo paese fingendo di sapere dove li stai portando. Tu ti fai pagare prima, li fai arrampicare un po', poi al momento buono li molli lì su un valico e fai perdere le tue tracce. Due volte su tre ti ribeccano e ti riempiono di botte. No, come due volte su tre? Sì, così. E li vogliono i soldi indietro? Eh sì. Eh no, ma allora gli affari non vanno bene. Eh no, però tu hai la tua dignità di capofamiglia irkmeno con tre mogli e un numero imprecisato di figli a carico da far valere. Per loro sei una figura di riferimento, carismatica. Devi nascondere i tuoi fallimenti e comportarti da leader del tuo nucleo familiare. Sì, ma che palle, scusa. Già mi va male il lavoro, poi mi riempono di botte, in più devo far finta in famiglia che va tutto bene. Vabbè, no. ma se sei un irkmeno è così, mica sei uno smidollato italiano ciarlatano Materazzi che alla prima difficoltà si appoggia alla famiglia, nel senso che molla tutto, si fa venire un esaurimento nervoso che si traduce nello svuotare la povera moglie che si è scelto. Scusa, se sei un irkmeno devi essere pronto a vivere due, tre, quattro realtà schizofreniche senza far vedere che ti fanno diventare pazzo. Cioè, tre mogli ma niente sesso, soldi pochi ma piuttosto di far brutta figura vai dagli aguzzini, tutte cose così. No, ma alla lunga uno che ha così tanti condizionamenti esplode. Infatti la mossa successiva è imbottirsi di esplosivo e farsi saltare in nome di una guerra santa immaginaria. Vabbè, meglio quello che le mogli coi baffi. Eh no, donne coi baffi no. Polli? Peggio che mai. E anche i polli? È la cucina irkmena è a base di pollo. Cambiano le salse, ma il pollo rimane. E allora no. Noi mangiamo pollo al sultan. Che pollo disossato, speziato, cotto a braccio. No, grazie. Poi c'è una meravigliosa ricetta chiamata musgam, che è stufata di pollo con sumaco, polvere da sparo. Sai cosa è sumaco? No. Arbusto sempreverde che cresce di boscaglia di Irkmenistan. Sì, vabbè, ma io parlavo di stufato, ma stufato, Ma è inutile, pollo, perché pollo e riso è quello che la maggior parte degli africani, ad esempio, mangia abitualmente. Quanti africani ci sono nel mondo? Un sacco. Quindi per te, caro pollo in sbattimento, non esiste una terra sicura. Non c'è nessun popolo che ha il tabù della carne di pollo. Vabbè, questa è sfiga. Sei un pollo. E nel mondo musulmano non si mangia il maiale. No. In India non si mangiano i bovini. No. Ma voi polli credo che siate graditi ovunque. Dovunque li mangio. Vabbè, è uno sbattimento questo qui. È così. Allora io in questo caso, scusami, l'indice di gradimento lo preferisco basso. Però un pollo medio in Irkmenistan vive nel cortile di casa. Deve essere bello. Non nelle fabbriche, no? O anche dentro casa. Dentro, dorme nel letto. È un po' a seconda del livello sociale della famiglia. Cioè, più basso il livello sociale, più galline trovano rifugio all'interno delle mura domestiche, hai capito? Vabbè, scusa, non è meglio stare con una famiglia povera. Sì, per i polli sì. Si diventa come il gatto di casa. Si mangia, si gioca con i bambini, ci si sente un po' parte della famiglia. Bello, Questo qui sì che è bello, mica il lager. Solo che... Solo che poi arriva il momento di grande festa di fine Ramadan. E tutto pollo e tutta gallina finiscono in grande mangiata fino a 6 di mattina tutto morto di indigestione. Irkmenistan, un bello paese, bello. Ho capito? Ma hai digerito? No. E no, tu hai digerito? No, questo è il problema. Che ho male alla panza. E allora la prossima volta non mangi più pollo, Che cosa succederà adesso? La via Irkmena è l'unica per provare a combattere l'omologazione consumistica della fabbrica di polli? E se diventeremo tutti Irkmeni, ci divertiremo ancora come adesso? Questa e altre domande troveranno una risposta a partire da lunedì a mezzanotte su Radio 3, grazie ai prossimi muezzinici allestimenti de... La fabbrica di polli produce, non chiude, non chiude mai. La fabbrica di polli produce, non muore.